aggrappato alle parole, esorcizzo un po' il silenzio, poi sento la tua voce e torno a volare. E si aprono orizzonti e si svelano segreti, nel calore dei tuoi baci sento l'anima danzare. Mi perdo in un sorriso, ti dono i miei pensieri, oggi come ieri, oggi come ieri. E mi specchio nel tuo viso, non sento il peso dell'attesa, oggi come ieri, oggi come ieri. Occupati in giorni grigi a cercare una luce lontana, mi stringo forte a te, sembra fermare il tempo, ma ogni momento dilata dentro sguardi un po' smarriti, poi solo schegge di ricordi sempre vicini ai tormenti del cuore. Mi perdo in un sorriso, ti dono i miei pensieri, oggi come ieri, oggi come ieri. E mi specchio nel tuo viso, non sento il peso dell'attesa, oggi come ieri, oggi come ieri. Perdo in un sorriso, ti dono i miei pensieri, oggi come ieri, oggi come ieri. E mi specchio nel tuo viso, non sento il peso dell'attesa, oggi come ieri, oggi come ieri.